Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Siamo arrivati in conclusione, grazie a Cristiano Valli che ci ha fatto da regia, grazie a tutti voi che ci avete con pazienza ascoltato. E comunicazione di servizio, la replica, che la settimana scorsa è andata lunedì invece che mercoledì, da questa settimana dovrebbe andare mercoledì, regolarmente mercoledì dopo l'ultimo notiziario. E non dovrebbe mancare molto che i testi della nostra trasmissione siano disponibili anche nel sito internet di Radio Popolare, ma di questo parleremo in seguito. A domenica prossima.